Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama Kilowattene, anche se non dice dove, è utile per scoprire sicuramente come. Parliamo di un software che a giorni sarà scaricabile gratuitamente dall'home page del sito dell'Enea, ma lo trovate già in rete facilmente con una ricerca, e serve a stimare i consumi casalinghi e a capire come ridurli. Io ce l'ho davanti, beh, insomma, si tratta di un ben noto foglio di Excel, qualcosa a cui siamo più o meno tutti abituati. Ci sono un bel po' di caselle da riempire, la domanda è quindi con cosa? Lo chiediamo a Guido Tonini, che è curatore del progetto Kilowattene, messo a punto dall'unità di trasferimento tecnologico dell'Enea di Bologna. Buonasera Tonini. Buonasera, salve. Allora, io vedo questa tabella, ecco, diciamolo subito, può spaventare un po' quando lo si apre questo foglio Excel, perché c'è veramente un gran numero di caselle da riempire, però dobbiamo spiegare invece ai nostri ascoltatori che non è obbligatorio riempirle tutte, ma prima di arrivare a questo, insomma, che cosa si mette in queste caselle, in questo strumento, e che cosa ci si deve aspettare di tirare fuori? Va bene, è uno strumento per l'analisi del consumo elettrico nelle case, nelle famiglie. È concepito in maniera da suddividere questo consumo nelle categorie principali, cioè le luci, l'illuminazione, gli elettrodomestici principali, i frigoriferi e le apparecchiature di lavaggio tipo lavatrice, lavapiatti, eccetera. Ci sono un certo numero di categorie. Ecco, per ognuna di queste categorie, per ogni elettrodomestico, bisogna inserire un certo numero di informazioni. Che sono, sì, quelli principali? Ma per esempio il frigorifero è uno degli apparecchi che consuma di più. Se si ha il manuale, se l'apparecchio è vecchio, si può avere fatica a trovarlo, ma uno può sempre averlo. In genere è indicato il consumo del costruttore, però se non abbiamo questo dato si può inserire la grandezza, il volume. Se uno non sa neanche il volume, si può inserire l'altezza. Quindi, diciamo, la possibilità di arrivare al risultato è in molti modi a seconda delle informazioni che si hanno. E questo è uno dei motivi, insomma, per cui ci sono tutte queste caselle, ma poi non necessariamente bisogna appunto riempirle tutte. Esatto, per alcuni apparecchi è importante indicare l'anno in cui è stato acquistato, certo, perché il consumo, sappiamo che c'è stato un forte progresso per effetto delle etichette energetiche europee. Una volta trovavamo nei negozi degli apparecchi di classe B e C, ormai andiamo a vedere, sono quasi tutti in classe A o A+. Certo. E quindi l'anno di acquisto, se non si sa la classe energetica, è importante per riuscire a determinare qual è effettivamente il consumo. Cosa viene fuori da questo strumento una volta che l'abbiamo riempito per bene di dati? Ma viene fuori un raffronto tra, diciamo, una radiografia di quello che è il nostro consumo a casa e quello che potremmo ottenere cambiando sia le nostre abitudini oppure sostituendo degli apparecchi, diciamo, considerati vecchi, non che non funzionino, ma non, certo, sono efficienti. Infatti bisogna stare attenti a non sostituire quelli troppo recenti, ecco, perché esatto, quello invece, quindi, sarebbe sbagliato, anche se si guadagna un po' di efficienza, insomma. Sì, quindi in questo caso aiuta lo strumento Kilowattene, perché dà una percentuale di risparmio tra l'apparecchio attuale esistente, quello che si usa, e un apparecchio nuovo tipico del mercato. In questo modo, se il vantaggio che possiamo ottenere è modesto, continuiamo ancora a utilizzare un apparecchio funzionante. Se invece, certo, ci rendiamo conto che per essere molto vecchio il vantaggio in bolletta che possiamo ottenere consistente, può valere la pena di sostituirlo. Tra l'altro, per alcune tipologie di apparecchi c'è un'indicazione immediata del tempo, del numero di anni in cui noi ce lo ripaghiamo, cioè quello che risparmiamo in bolletta alla fine può arrivare dopo 5, 7, 8 certo, anni, dipende dalle condizioni iniziali, a farci ripagare completamente un nuovo acquisto, e questo dunque, certe volte non è immediatamente evidente. sistema è così. Ecco, importante, lei in qualche modo l'ha già detto, questo strumento si può anche utilizzare a pezzi, per esempio su una sola categoria, ma anche solo limitarsi, come dire, a inserire i dati del proprio elettrodomestico per cercare di capire se è appunto il caso di sostituirlo. Perché dentro nel foglio Excel comunque c'è tutta una quantità appunto di informazioni che voi avete messo e che ha aggiunto intelligenza, per così dire. Quindi sì, ce la si cava un po' in tutti i casi. Per alcuni è un po' più semplice, per altri può essere un po' più complesso, però appunto secondo me può servire anche come aiuto nel caso di incertezza di nuovi acquisti. Devo cambiare il televisore oppure no? Cambio le lampadine con quelle a risparmio energetico? Ecco, senta, ci sono altri esempi all'estero di questo tipo di strumento? Ma senz'altro, io direi che in Italia siamo sicuramente uno dei paesi più indietro, perché è stata fatta una ricerca a livello soprattutto europeo e devo dire che in Inghilterra, soprattutto in Danimarca, in Svizzera, in Germania ci sono degli strumenti liberamente disponibili con cui le famiglie e i cittadini possono farsi un'idea di quello che è il loro consumo. Qua non parlo solo della parte elettrica, ma anche per esempio del riscaldamento e di quelli che possono essere i risultati che si ottengono come riduzione dei costi, ma anche come riduzione della CO2 nell'aria, perché questo è uno degli obiettivi del protocollo di Kyoto che tutte le nazioni europee saranno tenute a rispettare. Grazie Tonini, se ne chi lo vada a questo punto. Va bene, molte grazie, arrivederci. E allora ricordate, kilowattene lo trovate sul sito dell'Enea. Invece domani parliamo di membrane che sostituiscono alcuni processi termici nell'industria, consentendo come sempre il risparmio energetico. Buona serata.